A bordo campo di Dario Ricci. Ben ritrovati a bordo campo. Beh, come sapete ci siamo presi qualche settimana di riposo per il periodo estivo, ma giusto il tempo per tirare il fiato e poi per ripartire con una nuovissima serie e già tante sorprese in cantiere da settembre. L'occasione però della pausa estiva è preziosa per tenerci compagnia con alcune delle storie, a mio giudizio, più belle che ci hanno accompagnato in quest'anno di a bordo campo, tra le emozioni che ci hanno accompagnato sulla strada verso Londra 2012 e le storie che arrivano dal mondo del calcio, del basket e di tutti gli altri sport. In particolare oggi andiamo proprio a rivivere un paio di avventure che hanno segnato in qualche modo indirettamente la storia delle Olimpiadi. L'avventura di Carlo Airoldi, il podista italiano che quasi rischiò di vincere la prima maratona nella prima edizione dei giochi nell'era moderna nel 1896 proprio ad Atene, e poi ripercorreremo insieme a un ospite che vi lascio indovinare e che anzi vi presenterò fra pochissimo, la storia di quelle Olimpiadi che non si disputarono mai, quelle di Barcellona nel 1936, quella sorta di Olimpiadi socialiste che avrebbero dovuto essere la risposta della sinistra, della democrazia, anzi meglio europea, alle Olimpiadi di Berlino all'insegna del nazismo e di Adolf Hitler. Ebbene, furono semplicemente la vigilia di quella sanguinosa guerra civile spagnola che ebbe tanti eroi tra gli sconfitti e che portò al potere poi il dittatore, il generalissimo Franco. Insomma, due vicende che mescolano storia e politica, come molto spesso non può essere altrimenti nella storia degli uomini e anche degli uomini di sport. Allora, risentiamole insieme. Storie di un'altra Olimpiade, un'Olimpiade lontana più di un secolo, Atene 1896, la prima di tutte le Olimpiadi moderne. Oggi a bordo campo un tuffo nel passato, ma anche un tuffo nelle emozioni a cinque cerchi, con la voce di Biagio Vinella, il nostro ospite, attore, soprattutto cantastorie, e spesso qui a bordo campo cantastorie di personaggi e protagonisti della storia dello sport. Benvenuto Biagio, ben ritornato anzi a bordo campo. Grazie, grazie. Oggi raccontiamo una storia di più di un secolo fa, della prima Olimpiade, sì, dicevamo, sì, Atene, sì. 1896, quella maratona vinta dall'eroe greco per eccellenza, Spiridon Luis, l'uomo che fece rivivere il mito di Filippide, ma poteva essere un italiano. Invece di quello Spiridon, poteva essere tale Carlo Airoldi d'Origio, nato il 21 settembre 1869. Chi era questo Carlo Airoldi, Biagio? Allora, Carlo era un operaio con una grande passione per le gare, le corse, ma le corse lunghissime, no? Per esempio, allora si usava, parliamo del 1870-80, si usavano fare queste gare tipo la Milano-Torino, e lui le vinceva, la Milano-Como, e lui era un grande atleta. Era anche uno che lavorava anche per arrotondare nel circo, per esempio, faceva il sollevatore di pepe, faceva di tutto, era un personaggio molto particolare. Cioè, proprio noi come ci immaginiamo un personaggio di quell'epoca, per cui fisicato, non molto alto, baffoni, e questo era lui, era questo Carlo Airoldi, veramente un personaggio molto particolare. Grande atleta, come dicevi, grande anche per molti aspetti, salti in banco, no? Di tante accogliere l'occasione come veniva, sfruttando questa abilità nel podismo. Certo, podismo, in tutto. Lui era veramente, faceva anche i combattimenti, per esempio, nelle fiere. Era un personaggio, un grande personaggio. E poi era un podista straordinario, no? Straordinario, infatti, anche perché per vincere queste gare bisogna avere un coraggio, una forza e una resistenza impressionanti. E diciamo che forse, ecco, la chiave di tutto, di questo racconto, non è tanto le Olimpiadi del 96, ma è una cosa che c'è stata prima. Ovvero sia questa gara che viene organizzata, parte da Torino, Marsiglia, arrivo a Barcellona. Cioè 1020 chilometri, parliamo di una gara